nostri soldi sono una cosa seria. Di Deborah Rosciani e Mauro Meazza. Buona giornata questa mattina in realtà solo da Mauro Meazza, perché Deborah Rosciani ha preso un giorno, anzi due a dir la verità, di vacanza, e quindi la salutiamo, magari è all'ascolto in questo momento, per verificare poi come mi comporterò proprio nelle giornate in cui di solito diamo le prime informazioni sui mercati finanziari. Oggi parleremo non solo delle borse con l'abituale meteo borsa tra pochi minuti, ma anche di cartelle esattoriali. Cartelle esattoriali, perché la situazione è abbastanza complicata. Allora, avete ricevuto, avete una pendenza con Equitalia, che adesso si chiama Agenzia Entrate Riscossione. Beh, insomma, la situazione è complicata perché c'è un decreto legge da una parte, ci sono le proposte di correzione a questo decreto legge, quindi le regole potrebbero ulteriormente cambiare, e allora alcuni vengono ripescati, altri no. Abbiamo degli esperti e degli ospiti in collegamento con noi che possono aiutarci a dirimere il tutto, e naturalmente sottoponeteci anche le vostre perplessità. I numeri sono quelli abituali: 800240024 per intervenire in diretta, oppure se volete scriverci un SMS o per WhatsApp 349-238-6666. Abbiamo naturalmente una casella anche di posta elettronica, 2didenari@radio24.it. In apertura di questa trasmissione voglio però soprattutto salutare Peter Bescapè, che mi guarda dall'altra parte del vetro, ancora un po' smarrito, rientrato dalle sue vacanze. Bentornato Peter, ti vedo ancora un pochino provato da questo rientro, e poi certo adesso dovrai sentir parlare di cartelle esattoriali. Non è certamente un bel viatico per tornare al lavoro. Ma innanzitutto andiamo con la nostra abituale rubrica del lunedì, Meteo Borsa. Meteo Borsa. Si apre la settimana dei mercati, molte cose in realtà sono successe già nella scorsa settimana. Abbiamo visto l'intervento sui tassi della Banca d'Inghilterra, abbiamo visto questi andamenti molto positivi per alcuni mercati. E allora, che settimana sarà? A livello italiano naturalmente la notizia è quella politica, ci dovrebbe essere la pubblicazione della legge elettorale in Gazzetta Ufficiale, quindi insomma dopo le elezioni siciliane si farà un punto su quello che può essere l'agenda politica della fine di questo 2017 e del 2018, ma sentiamo cosa ne pensa Salvatore Gazziano, che è in collegamento con noi, responsabile delle strategie di investimento di Soldi Expert. Buongiorno dottor Gazziano. Buongiorno a voi. Allora, com'è? Una settimana tranquilla? Ci possiamo aspettare sui mercati? Tempo stabile? Bello stabile? Ma con i mercati finanziari non siamo ancora a livello di allerta come in molte regioni in Liguria, e qualche sorpresa sicuramente potrebbe esserci. Già qualche cosa si è visto stamattina su alcuni titoli o alcuni trend. Diciamo che questa sarà una settimana caratterizzata soprattutto in Italia dalla pubblicazione a pioggia di tantissime relazioni trimestrali sul terzo trimestre dell'anno, quindi domani soprattutto è attesa quella di Intesa San Paolo, poi Enel, Leonardo, quindi i titoli saranno sicuramente condizionati l'andamento in borsa da questo, diciamo, risultati, dei risultati infrannuali. Dicevo che però alcune notizie sicuramente questa mattina si vedono per i mercati, per molti risparmiatori, perché nel fine settimana c'è stato di nuovo l'ennesimo alert, questa volta sembra più grave di tutti gli altri, sul Venezuela, dove la possibilità di un default del debito è molto aumentato, addirittura i default swap sono arrivati a oltre 800, e questa mattina molti titoli obbligazionari di questo stato sudamericano perdono l'8-10%. Potrebbe sembrare una storia che non ci interessa molto, ma purtroppo sappiamo che molti risparmiatori italiani si cacciano anche da loro nei guai, e negli scorsi mesi ricordo che alcuni bond venezuelani erano fra i più trattati a Piazza Affari perché davano un rendimento molto elevato, e qualcuno credo che si scotterà anche questa volta. Uno swap a 800, ha detto lei, allora traduciamo anche per i meno avvezzi a queste materie, quindi vuol dire che i mercati temono fortemente che qui ci sia un tracollo da questo punto di vista, perché lo swap è uno strumento per coprirsi appunto dai rovesci, è corretto? Sì, sì. Esatto, tant'è vero che molti bond del Venezuela oggi valgono 25-30 euro sul nominale di 100 di rimborso, quindi viene dato ormai per scontato il fatto che il rimborso non ci sarà e che verrà proposta, come è successo alla Grecia alcuni anni fa, una ristrutturazione del debito abbastanza pesante, visto che lo stesso Maduro ha ammesso che la situazione è molto grave. Quindi se avete rischiato con dei bond, dei titoli dello Stato venezuelano, insomma, potreste avere delle brutte sorprese. Erano d'altra parte anche titoli che promettevano rendimenti molto alti, quindi che ci fosse un fattore di rischio elevato era comprensibile, era diciamo plausibile, no? Visto il rendimento che veniva promesso. Sì, anche se purtroppo molti risparmiatori su questo aspetto a volte si lasciano un po' prendere dagli errori classici della finanza comportamentale, del dire no, ma figurati se può succedere una cosa del genere, sono così scesi così tanto, invece sappiamo che non è una buona strategia. Torniamo a casa nostra, perché lei ha già evocato un titolo bancario. Allora, le banche sembrano sempre un po' debolucce, e poi naturalmente c'è questo dibattito forte su ulteriori regole, le cosiddette regole di Basilea, che potrebbero ulteriormente, diciamo, mortificare i conti delle banche nostrane, delle banche italiane. Sì, questa settimana diciamo hanno forse giocato anche negativamente le prime trimestrali, questa volta che arrivano d'Oltralpe, Società Generale, pubblicato i dati questo fine settimana e non sono stati molto positivi, tanto che il titolo perde il 3-3,5% sulla presunzione che anche in Italia il terzo trimestre, per effetto dei tassi di interesse, non sarà molto buono per molte società bancarie, quindi l'indice bancario perde l'1-1,15% ed è quello che in effetti fa più da zavorra a Piazza Affari, condizionato sempre dai soliti discorsi sul documento anche in consultazione che potrebbe prevedere per le banche europee, soprattutto le italiane che detengono un terzo delle sofferenze, potrebbe essere l'impatto maggiore nel caso che si decida di aumentare ancora di più i criteri di valutazione in maniera più restrittiva all'interno dei bilanci. Speriamo che questo non accada, o che comunque ci siano spazi negoziali per evitare un approccio, come dire, poco generoso con il nostro sistema bancario, che ovviamente ha delle particolarità rispetto a quello di altri grandi partner europei. Voglio fare uno sguardo insieme a lei sugli Stati Uniti, perché siamo a un anno più o meno, si celebra questa settimana un anno dall'elezione di Donald Trump. Allora, già abbiamo detto molte volte, ci si aspettavano rimbalzi, tracolli, grandi spostamenti, poi invece diciamo il mercato americano ha continuato a crescere con una certa regolarità e adesso sta su valori molto molto alti, l'abbiamo già detto più volte, a due di denari. Cosa possiamo dire? Trump peraltro appena aspetta di ricevere dal Congresso questo suo primo via libera alla riforma fiscale, una riforma molto impegnativa, ne abbiamo parlato in questo fine settimana anche sul Sole 24 Ore. Qual è la prospettiva, com'è il meteo per gli Stati Uniti in questa settimana? Ma diciamo che il meteo, diciamo, a questo punto anche di fare previsioni dopo quello che è successo un anno fa, come ha ricordato bene, come ancora meglio aveva ricordato nella famosa canzone dei Chapter 11, nella Saudade do Guru, rende veramente molto efficace e forte le previsioni di un grande economista come John Kenneth Galbraith, che diceva che la sola funzione delle previsioni in campo economico è quello di rendere persino l'astrologia un po' più rispettabile, perché bene ha ricordato che un anno fa il New York Times proprio in questi giorni dava il 93% di probabilità di vittoria a Hillary Clinton e Soros scommetteva al ribasso su Wall Street e poi ci perse $1 miliardo, perché diceva che l'elezione di Donald Trump sarebbe stato un tracollo. Da questo punto di vista sappiamo che i mercati azionari, sia il Dow Jones che il Nasdaq, anche i titoli tecnologici, sono saliti di oltre il 30% negli ultimi giorni, sono molto forti, e forse anche il settore tecnologico. Proprio questa mattina abbiamo visto anche alcuni titoli proprio del settore, anche in Italia, le STM quotate, sembrano ancora interessati a potenziali operazioni molto forti di acquisizione, quindi il settore resta ancora nel mirino degli acquisti, anche supportato, come diceva, da una riforma fiscale dove quello che per noi sono aliquote che vengono applicate ai risparmiatori con 18-25 mila euro di reddito, lì le vogliono dare a risparmiatori con contribuenti con 200-300 mila euro, quindi diciamo la spinta fiscale può essere molto forte per ancora l'azionario e anche per molte società per continuare a riacquistarsi le azioni e sostenere la crescita in questo momento. Certo, e allora vediamo un po' come sarà. Le previsioni, si dice, no, in economia sono fatte per essere smentite. Lei ha ricordato la battuta sugli astrologi, c'è anche quella degli economisti che ti spiegano perfettamente le cose dopo che sono successe, pertanto per restare in tema di guru, appunto, cioè di non è questo naturalmente il nostro compito, noi segnaliamo appunto le tendenze come ogni lunedì con Meteo Borsa. Grazie a Salvatore Gazziano e a presto. Grazie a voi, buona giornata. E allora veniamo alla rottamazione delle cartelle, però devo segnalarvi proprio prima di entrare nel vivo, già ci sono delle telefonate da parte vostra, grazie, i numeri come vi ho detto sono quelli abituali, 80024 0024 per intervenire in diretta, 349 238 6666 per sms e whatsapp. Vi ricordo che da oggi, proprio con il Sole 24 Ore che è in edicola oggi, è attiva questa casella il mio giornale @ilsole24ore.com. È una casella molto indirizzata all'utenza professionale, ai nostri lettori professionisti, quindi tributaristi, avvocati, commercialisti, consulenti del lavoro, insomma tutti coloro che hanno a che fare quotidianamente con il fisco, con le norme, con la prassi e ne hanno difficoltà, segnalateci anche le cose che non vanno proprio nel sistema complessivamente, non solo il dettaglio, il dettaglio appunto delle normative, di queste normative maledette. Direttamente mobili, mi viene da dire, è quello che affrontiamo tutti i giorni qui a Due di Denari e naturalmente al Sole 24 Ore e sul nostro sito. Da oggi appunto questa casella postale per raccontarci quello che proprio non funziona complessivamente nel sistema, il mio giornale @ilsole24ore.com. E allora abbiamo in linea Luigi Lovecchio, che è il nostro esperto, appunto si occupa tra le altre cose anche di rottamazione delle cartelle, perché parliamo di questa rottamazione. Buongiorno dottor Lovecchio. Buongiorno a tutti. Allora dottor Lovecchio, la questione della rottamazione delle cartelle è abbastanza complessa in questo momento. Riassumo malamente, così da darle modo poi di ampliare il discorso. Noi abbiamo una scadenza a fine novembre che riguarda, per così dire, la rottamazione numero 1, ma con il decreto legge fiscale, che è il numero 148 per gli appassionati della materia, abbiamo poi una rottamazione numero 2, che in realtà, come abbiamo spiegato più e più volte, ha tre percorsi differenti. L'uno per, diciamo, i respinti, coloro che sono stati respinti nella rottamazione numero uno in un certo caso particolare, e altri due percorsi. Adesso io l'ho detto male, lo dica meglio lei, dottor Lovecchio, così riassumiamo cosa c'è da fare e se dobbiamo prepararci a pagare qualcosa, se abbiamo appunto la necessità di chiudere i conti con Equitalia. Sì, allora diciamo, come ricordava correttamente, sono tre le strade aperte da questo decreto legge 148 del 2017. La più semplice da comprendere e da attuare è quella che prevede che per tutti quelli che hanno già presentato la domanda il 21 aprile 2017 e hanno saltato o hanno versato in ritardo la rata di luglio e o la rata di settembre, e qui ricordo che per le regole della rottamazione è sufficiente anche un solo giorno di ritardo per decadere totalmente dai benefici di legge, bene, questi soggetti vengono in qualche modo recuperati, nel senso che se abbiamo saltato la rata di luglio e o la rata di settembre siamo rimessi in termini e possiamo versare tutto entro il 30 di novembre. Questo significa che per questi debitori interessati al 30 di novembre andranno versate complessivamente tre rate, le rate saltate a luglio e a settembre e la rata di novembre. Ovviamente se il debitore ha già versato seppur in ritardo, adesso al 30 di novembre dovrà limitarsi a pagare la rata di novembre, perché il pagamento che ha fatto seppur in ritardo è buono, è considerato buono. Per avvalersi di questa norma non occorre fare nulla, è sufficiente che a novembre io versi il dovuto. Quello che verso va bene e mi fa salva la vecchia rottamazione. Benissimo. Poi c'è una seconda, Poi c'è benissimo, una seconda... è un intercalare, non vorrei che qualcuno prendesse come un giudizio. Benissimo, nel senso, questa prima parte è chiara. Veniamo però alle altre due parti. Sì. La seconda disciplina è solo ed esclusivamente per i soggetti che hanno presentato la domanda nel 21 di aprile 2017. Se la sono vista respingere da Agenzia delle Entrate e Riscossione, unicamente per questo motivo, per non aver pagato tutte le rate scadute a dicembre 2016, pur avendo una dilazione in corso al 24 ottobre 2016. Qui apro una brevissima parentesi. La norma della vecchia rottamazione prevedeva che tutti i soggetti che avevano dilazioni in corso al 24 ottobre 2016, che è la data di entrata in vigore dell'originaria norma sulla rottamazione, cioè il decreto legge 193 del 2016, potevano accedere alla definizione agevolata a condizione che pagassero le rate in scadenza a ottobre, novembre e dicembre 2016. Che cosa è accaduto? È accaduto che, malgrado la norma fosse, secondo me, insomma, molto chiara, Equitalia l'ha interpretata in senso un pochino estensivo. Cioè Equitalia ha detto: guardate che se voi avevate delle rate scadute anche prima di ottobre, novembre e dicembre 2016, per poter aderire alla definizione agevolata mi dovete pagare anche quelle. Allora, ripeto, che cosa è accaduto? Che molti contribuenti, in perfetta buona fede, si sono limitati a pagare le rate di ottobre, novembre e dicembre 2016, perché così era scritto nella norma, senza andare a pagare le rate scadute precedentemente. Ebbene, questi contribuenti si sono visti rigettare totalmente o parzialmente, a seconda ovviamente dell'oggetto dell'istanza, la domanda di definizione agevolata, e quindi si sono visti rigettare i benefici di legge. Bene, solo per questi soggetti vengono recuperati anch'essi attraverso la possibilità di proporre una nuova istanza, quindi qui bisogna attivarsi. È preciso che lo schema di istanza è stato pubblicato e lo si trova sul sito dell'Agenzia delle Entrate e Riscossione. Allora, sì, corretto, infatti è disponibile dagli ultimi giorni di ottobre, questo per i nuovi, come dire, coloro che hanno presentato domanda sono stati respinti per non regolarità nei pagamenti rateali precedenti, quindi parliamo del 2016, e adesso possono aderire a questa nuova. Però, attenzione, devono usare i nuovi moduli, quelli che sono sul sito dell'Agenzia. Prego, dottor Lovecchio. Per la precisione, il modulo da utilizzare è DAR, è individuato attraverso questo acronimo, DAR. Benissimo. Quindi basta prendere questo modello, compilarlo e trasmetterlo entro il 31 dicembre 2016. A questo punto che cosa accade? Una volta che io ho trasmesso questo modello entro il 31 dicembre 2016, sono rientrato nella rottamazione, seppur con una diversa scansione temporale, però posso fruire dei medesimi benefici. Quali sono gli adempimenti successivi al 31 dicembre 2016? Primo passaggio: l'Agenzia delle Entrate e Riscossione comunica al debitore entro il 31 marzo del 2018 tutte le rate scadute al 2016 che devono essere versate in un'unica soluzione entro il 31 di maggio per poter accedere alla nuova definizione agevolata, alla riammissione nella definizione agevolata. Sì. Primo passaggio, 31 marzo, l'Agenzia delle Entrate e Riscossione mi comunica qual è l'importo delle rate scadute nel 2016, io le devo versare tutte quante entro il 31 maggio. Anche in questo caso ricordo che le regole sono quelle sempre tassative della vecchia definizione agevolata: un giorno di ritardo. Sì. O non so, 5 euro di omesso versamento mi pregiudicano l'accesso alla definizione. Come abbiamo detto, per la prima definizione. Esatto, esattamente. Aspetti, dottor Lovecchio, aspetti, perché adesso è il momento di dare l'aggiornamento sui mercati. Noi abbiamo ancora un caso da esplorare per questa nuova rottamazione e poi ci sono già delle telefonate, chiedo un po' di pazienza agli ascoltatori. Abbiamo anche il collega Giovanni Parenti in linea da Roma, perché Tutto questo che stiamo dicendo potrebbe ulteriormente modificarsi con la conversione in legge del decreto legge 148, tanto per renderci la vita complicata. Però ora ci fermiamo un momento, prendiamo fiato e ascoltiamo come stanno andando i mercati. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Due di Denari. Io comincio a pensare che questo Taxman e i miei amici Giulia Lauricella e Marco Lombardo che mi assistono questa mattina, anche questa mattina, lo mettano un po' per dileggiarmi in qualche modo, cioè che io sia davvero l'uomo delle tasse. Non sono l'uomo delle tasse, ma sto parlando di tasse di cartelle esattoriali, qui a Due di Denari con Luigi Lovecchio. Dottor Lovecchio, ci mancava un percorso di rottamazione, poi vorrei dare la linea subito a qualche ascoltatore che ci ha telefonato. Qual è la terza possibilità di adesione che è stata prevista? E allora innanzitutto finisco la seconda, che non avevo finito, quindi il 31 di maggio si versano in unica soluzione le rate scadute nel 2016, il 31 luglio 2018 l'Agenzia delle Entrate e Riscossione comunica l'importo complessivo della rottamazione, cioè delle somme residue dopo quelle che si sono versate, che devono essere versate in tre rate a settembre, ottobre e novembre 2018. Terzo percorso. Questo terzo percorso riguarda solo gli affidamenti fatti a Equitalia, o meglio all'Agenzia delle Entrate e Riscossione, dall'1 gennaio 2017 al 30 settembre 2017. Quindi sono dei carichi nuovi, dei carichi a ruolo nuovi. In questo caso l'istanza, che è già pronta, anche questa è già pronta, va presentata entro il 15 di maggio, c'è tempo quindi. Sì. L'Agenzia delle Entrate e Riscossione comunica gli importi da versare entro il 30 giugno del 2018 e il pagamento deve avvenire in 5 rate, che sono luglio, settembre, ottobre, novembre 2018 e febbraio 2019. Questa è la terza strada. Allora sentiamo subito Tindaro da Brescia che aveva una domanda. Buongiorno Tindaro. Sì, buongiorno. Mi dica. Allora veramente avrei due domande. Comunque la prima, io ho già in atto una rottamazione fatta ad aprile su 5 rate. Ho già pagato una, dovrò pagarne un'altra, la seconda il 30 novembre e poi le altre nel 2018. Sì. Però adesso io ho altre cartelle da rottamare che non sono state rottamate. E devo fare una domanda a sé stante o posso fare un cumulo e quindi avere delle rate uniche e non avere doppie rate? Sentiamo subito il dottor Lovecchio sul punto. Dottor Lovecchio. Se queste cartelle nuove sono cartelle riferite al 2017, cioè fanno riferimento a affidamenti, ruoli che sono stati trasmessi dall'Agenzia delle Entrate all'Agenzia delle Entrate Riscossione nel 2017, se sta parlando di cartelle, i dati del ruolo dovrebbero essere indicati nella cartella. Se il ruolo è 2017, allora deve rientrare, può rientrare nella nuova rottamazione, cioè la terza strada alla quale ho fatto riferimento prima. Non è possibile accorpare le due discipline perché sono discipline autonome e quindi queste cartelle 2017, rientrando nella nuova rottamazione, dovranno essere oggetto di un'apposita istanza che va trasmessa entro il 15 maggio 2018. Grazie. Allora Enzo da Napoli, che invece è, se da quello che capisco, ha saltato la prima chiamata, la prima rottamazione. Buongiorno Enzo. Sì, buongiorno, sono Enzo da Napoli. Sì, in effetti la domanda era per chi non per problemi personali non avesse presentato domanda per accedere alla rottamazione, quella che scadeva il 21, è possibile rientrarci adesso e se sì come? Sentiamo Lovecchio, io temo di no. Dottor Lovecchio? Sì, appunto, al momento no, però aspettiamo di sapere anche da Giovanni Parente quali sono le novità in arrivo in sede di conversione del decreto legge 148. Al momento no. Allora, Giovanni, sei stato subito chiamato in causa. Buongiorno innanzitutto, grazie di aver atteso fino ad ora. Buongiorno a voi. Giovanni, giustamente noi abbiamo fin qui illustrato le regole attualmente vigenti, ma poiché sono affidati a un decreto legge e come sappiamo il decreto legge deve essere definitivamente convertito, potrebbe cambiare ancora qualcosa. Allora, com'è l'atmosfera lì a Roma alle Camere? Che cosa si pensa di modificare ulteriormente? Allora, Mauro Luigi, abbiamo già scritto in settimana che c'è stato un emendamento presentato dal PD, Giorgio Santini, che è capogruppo PD in Commissione Bilancio, quindi e potrebbe esserci su questo emendamento una forte convergenza sia parlamentare sia sostanziale, nulla osta governativo, magari con dei ritocchi anche in sede di riscrittura emendamento governativo o maxi emendamento, che punta di fatto ad estendere la platea della rottamazione bis. Giustamente, come diceva Lovecchio, l'ultima parte, la fase 3 sostanzialmente di questa rottamazione riguarda i ruoli, o meglio i carichi affidati alla gente della riscossione da gennaio a settembre 2017. Questo emendamento, già depositato, in realtà aprirebbe a tutto il cumulo dei carichi affidati alla riscossione dal 2000 fino a settembre 2017. Quindi Enzo da Napoli potrebbe a questo punto, se questo emendamento fosse approvato, potrebbe usufruire di questa finestra, giusto? Certo, potrebbe usufruire di questa finestra e naturalmente stiamo parlando di carichi per cui non è stata mai chiesta, non è stata presentata istanza di rottamazione. In questo caso, quindi, se l'emendamento fosse approvato, ci sarebbe un allargamento ampio e chi si è perso il treno della prima rottamazione non presentando domanda può rientrare e presentandola ovviamente con una tempistica che questo emendamento riscrive e definisce il termine per della presentazione chiaramente della domanda del tutto al 15 maggio 2018, stessa data prevista attualmente dal decreto in vigore per chi ovviamente ha dei carichi affidati alla riscossione da gennaio a settembre 2017. Ti volevo chiedere un'altra cosa, se ho capito bene, si potrebbe anche, diciamo, andare a riaprire per quanto riguarda le contravvenzioni dal codice della strada, le multe, insomma, detto brutalmente. Però al momento questa possibilità non c'è col decreto legge 148. No, Mauro, ne avevamo parlato la volta scorsa quando siamo stati in trasmissione, proprio abbiamo affrontato la rottamazione delle cartelle. C'era arrivata appunto la domanda di un radioascoltatore in cui avevamo appunto indicato che c'era una criticità da questo punto di vista. C'è la possibilità che venga estesa con un altro emendamento la possibilità di rottamazione bis anche alle cartelle e tributi locali che, attenzione, non vengono riscossi attraverso cartelle ma attraverso il meccanismo dell'ingiunzione. In questo caso i comuni dovrebbero deliberare se aderire o meno alla rottamazione, così come hanno fatto per la versione ancora in corso della rottamazione 1, per così esattamente, dire. Esattamente lì, se non erro, era stata data prima la possibilità fino a fine gennaio, poi era stata posticipata fino a fine marzo di quest'anno e appunto i comuni hanno potuto deliberare se aderire o meno. Diciamo che nella gran parte alcuni i grandi comuni hanno deciso di sfruttare questa opportunità. In questo caso l'emendamento consentirebbe una nuova delibera estensiva anche per quei carichi che non sono entrati nella rottamazione, nella prima rottamazione tuttora in corso. Grazie Giovanni. Allora, noi adesso stiamo per darvi le informazioni sulla viabilità, ma naturalmente, essendo lunedì, è il momento del sonetto. Par che ogni giorno il fisco abbia uno strale pronto per tormentar la donna e l'uom. Spesometro o cartella esattoriale scaglia più di Guglielmo Tell al POM. Se la mestizia in animo t'assale, ha il sole24ore.com all'indirizzo de Il Mio Giornale, tu scrivere potrai come al nostrom. Gli amici nei rovesci sono rari, perciò il consiglio amico prendi al vol e sfrutta lo postino tuo informatico. Lo dico in versi qui a due di denari, racconta al sole ciò che più ti duol. E intanto che ci pensi, vada il traffico! Stufe e caminetti, la Nordica Extra Flame, il puro calore made in Italy che riscalda la vita. vi presenta Due di denari. Certo, tutti quanti abbiamo bisogno di denaro, ma in particolare abbiamo bisogno di denaro anche se dobbiamo saldare i debiti con il fisco. Ad esempio, vorrei sentire Claudio da Roma, perché mi pare che abbia avuto esattamente questo problema, cioè una mancanza di disponibilità. È così, Claudio? Buongiorno. Salve, buongiorno. Proprio così. Io volevo chiedere, innanzitutto, premetto, piccola impresa. Per chi ha piccola impresa, ha delle rateizzazioni già messi in atto nel 2016, però per problemi di liquidità di lavoro non è riuscito a pagare tutte le rate e magari sono decadute. C'è possibilità di riattivarle e di accedere alla rottamazione per le nuove cartelle? Premetto che alla precedente rottamazione non ho aderito. Quindi aderire a questa rottamazione per le nuove cartelle e rimettere in piedi praticamente le rateizzazioni precedenti che sono saltate perché per problemi di liquidità. E volevo chiedere poi se per le piccole imprese c'era qualcosa, cioè, non so, una particolare disciplina, diciamo. Ecco, sì. Sapendo le difficoltà che stiamo passando. Certo. Sentiamo il dottor Lovecchio. Dottor Lovecchio. Allora, ovviamente niente di particolare per le piccole imprese, nel senso che sono trattate esattamente come tutte le altre, come i soggetti non imprese. Allora, la situazione è questa. Certamente per le cartelle 2017 si può aderire alla rottamazione bis, che è la terza strada che abbiamo visto prima, su quello non c'è dubbio. Per gli affidamenti eseguiti sino al 31 dicembre 2016, per i quali erano in corso delle dilazioni che sono poi scadute, a bocce ferme, cioè se non passa quell'emendamento, in attesa che passi quell'emendamento di cui parlava prima Giovanni Parente, l'unica possibilità per rientrare nella dilazione è pagare tutte le rate scadute ad oggi. Se io pago tutte le rate scadute ad oggi, posso ripristinare la vecchia rateazione, altrimenti non posso. Credo che, immagino, insomma, considerata la situazione di difficoltà generale in cui si trovano le imprese, che forse converrà attendere per verificare se questo emendamento di cui si è parlato prima verrà effettivamente approvato, perché se viene approvato allora può far rientrare anche quelle dilazioni che sono decadute del 2016. Ne approfitto perché ci scrive un ascoltatore, ci manda un messaggio SMS al 349-238-6666, dice: ma se io adesso chiedo la rottamazione nuova, cioè stiamo parlando della numero 2, quella sulle cartelle arrivate da gennaio fino a settembre di quest'anno 2017, fermo gli eventuali procedimenti esecutivi? Penso di sì, giusto, dottor Lovecchio? Allora, con la presentazione, con la mera presentazione dell'istanza, quindi questo è un motivo che può indurre i debitori, i soggetti esposti con l'Agenzia delle Entrate di riscossione ad anticipare i tempi rispetto alle scadenze di legge, io blocco tutto, nel senso che se presento l'istanza non possono essere adottate né nuove azioni esecutive né nuovi strumenti cautelari, intendo dire fermi amministrativi dell'auto, iscrizioni di ipoteca, eccetera, blocco tutto fino a quando non decado dalla rottamazione. E quindi, voglio dire, se io la presento adesso, per poter decadere dalla rottamazione devo aspettare il 2018, luglio o settembre 2018, a seconda del tipo di definizione agevolata di cui si parla. Per cui conviene, la domanda è assolutamente opportuna, conviene anticipare il più possibile la presentazione dell'istanza. Istanza di cui abbiamo già detto, ma lo ricordiamo, ci sono i moduli disponibili, sono lì dalla fine del mese di ottobre, quelli nuovi appunto per la nuova rottamazione sul sito dell'Agenzia delle Entrate. Invece, a proposito di internet, sulla nostra pagina Facebook potete seguire non solo in diretta questo programma, ma potete anche rivedere poi successivamente anche gli estratti che faremo appunto delle parti, di alcune parti più interessanti di quanto ci stanno spiegando Luigi Lovecchio e Giovanni Parente. E proprio a Giovanni Parente io vorrei rivolgere ancora una domanda, ma com'è il clima? Perché mi sembra di capire che in una necessità anche di tenere, di ottenere del gettito, ci sia la volontà di ampliare abbastanza la rottamazione, quindi l'emendamento di cui ci parlavi, insomma, e quindi allargamenti, miglioramenti, insomma, più favorevoli ai contribuenti siano prevedibili, è così Giovanni? Sì, c'è sicuramente Mauro una necessità anche di recuperare ulteriori risorse a copertura della manovra o a copertura di eventuali altre spese o destinazioni che in qualche modo si vuole essere messe in campo. Quindi un'estensione è assolutamente ragionevole attendersela. Del resto ne parlavamo già prima che il decreto venisse approvato, che molto probabilmente quella non sarebbe stata la versione definitiva della rottamazione bis. È chiaro che quanto poi verrà insomma ridisegnata, riformulata, dipenderà anche dalle esigenze anche di non poi compromettere la riscossione ordinaria nel corso del 2017, che comunque sta andando in corso, sta andando avanti. Devo ricordare anche che con la rottamazione, anche con l'emendamento, resta ferma la regola del pagamento in 5 rate, ad eccezione di quelli che vengono ripescati dai piani di dilazione che vengono stati scartati, che li hanno 3 rate. Però le 5 rate ritengo che possono rappresentare ancora una volta un ostacolo per chi non ha liquidità necessaria per poter versare tutto in un arco temporale sostanzialmente di pochi mesi. Quindi insomma bisognerà anche fare attenzione alle proprie disponibilità finanziarie per decidere se aderire o meno. Ecco, una cosa ci chiedono via SMS, forse non l'abbiamo ricordato. La rottamazione non serve solo a dilazionare i pagamenti, perché rottamare vuol dire sia avere queste 5 rate o 3 rate per quelli che venivano dalla precedente, ma per evitare sanzioni. Giovanni, se vuoi riepilogare questo dato che effettivamente non abbiamo ricordato, sì, proprio in apertura di trasmissione. Sì, sì. Mauro, giustamente, la rottamazione è una procedura straordinaria, diciamo così, che consente di chiudere i conti con l'agente della riscossione, ma con un vantaggio per il contribuente, che ha sui carichi di natura tributaria, ti faccio questo esempio perché sono quelli poi più diffusi, la possibilità di accedere allo sconto delle sanzioni e degli interessi di mora. Discorso diverso invece sulle cartelle che attengono, banalmente te le semplifico, per le multe stradali. In quel caso la sanzione è il cuore stesso della contestazione. In questo caso la rottamazione consente di scontare soltanto gli interessi. Ecco che quindi la rottamazione ti dà un vantaggio in termini di importi da pagare, ma come dicevamo poc'anzi lo devi pagare praticamente quasi tutto e subito rispetto a un ordinario piano di dilazione che di regola è sui 6 anni, 72 rate, ma nei casi straordinari di difficoltà può anche estendersi fino a 10 anni, quindi 120 rate. Però in quel caso si paga di più, ma scaglionato in un arco temporale più ampio. Sì, perché ovviamente è sempre possibile chiedere di rateizzare il proprio debito con il fisco. Chiedo conferma al dottor Lovecchio. Sì, sì, è sempre possibile, a meno che non siano scadute delle precedenti dilazioni, perché allora a quel punto devo prima sanare le precedenti dilazioni e dopo chiedere la rateazione nuova. Questo è il problema. Se io non ho però un pregresso di dilazioni scadute, posso sempre dilazionare rispettando le regole previste dalla legge e dalle direttive di Equitalia. E questa è la buona notizia, sono anche fuori da tutto questo momento della rottamazione. Sì, certo, mi toccherà pagare le sanzioni in questo pagamento a rate, però tutto quello che sta succedendo, queste aperture e queste possibili modifiche di cui vi abbiamo parlato questa mattina, non riguardano invece chi vuole semplicemente rateizzare il proprio debito fiscale. Con questo forse abbiamo dato anche una risposta a Franca, che via Facebook si diceva: ma se uno è in regola con i pagamenti non ha bisogno di fare rottamazione. No, se è in regola con i suoi pagamenti rateali di cartelle precedenti, immagino che questa sia la domanda di Franca, no, non c'è una necessità di aderire alla rottamazione. Chiedo conferma ai miei due ospiti, Giovanni Parente e Luigi Lovecchio. Mauro, è un'opportunità, non assolutamente un obbligo, quindi se la nostra ascoltatrice ritiene di voler andare avanti col suo piano di rateizzazione in regola col piano di pagamenti, va avanti con quello. Se ritiene che insomma ha la liquidità necessaria e vuole chiudere i conti pagando un po' di meno, allora può scegliere se avvalersi della rottamazione, naturalmente se vi rientra nelle ipotesi previste dalla legge. Certo, allora grazie a Giovanni Parente, grazie a Luigi Lovecchio e a tutti voi che ci avete seguito questa mattina. Vi ricordiamo poi che noi da domani con Radio 24 saremo anche presenti a Ecomondo, che è la fiera della Green and Circular Economy a Rimini dal 7 al 10 novembre. Quindi diversi programmi di Radio 24 saranno proprio da Ecomondo. E noi torniamo domani con Due di Denari.